Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Se al mattino dopo avessero detto a Stiopa Likadiev: «Stiopa, sarei fucilato se non ti alzi subito», Stiopa avrebbe risposto con voce fievole e languida: «Fucilatemi, fate di me quello che volete, ma non mi alzo». Altro che alzarsi. Gli sembrava di non poter neppure aprire gli occhi. Se lo avesse fatto, un fulmine sarebbe esploso e gli avrebbe mandato in pezzi la testa. In essa rimbombava una pesante campana. Tra i globi oculari e le palpebre chiuse fluttuavano macchie brune orlate di un verde fiammeggiante e, per di più, sentiva una nausea che sembrava collegata ai suoni di un ossessivo grammofono. Nella penombra qualcosa mandava un fioco riflesso. Finalmente Stiopa riconobbe la specchiera e capì che giaceva riverso sul suo letto, cioè sull'ex letto della gioielliera, nella propria camera. A questo punto sentì un tale colpo alla testa che chiuse gli occhi e lanciò un gemito. Spieghiamoci. Stiopa Likadiev, direttore del teatro di varietà, si svegliò al mattino nell'appartamento che condivideva con il defunto Berlioz, in una casa a 5 piani che dava sulla Sadovaia. Si deve dire che quell'appartamento, il numero 50, godeva da tempo di una reputazione che, se non cattiva, era in ogni modo ambigua. Sino a 2 anni prima, esso apparteneva alla vedova del gioielliere de Fougeré, Anna Franzevna de Fougeré, rispettabile signora cinquantenne molto attiva, affittava 3 camere su 5. Uno degli inquilini si chiamava, pare, Belomut, e l'altro non aveva più cognome. Ed ecco che circa 2 anni fa nell'appartamento erano cominciati avvenimenti inspiegabili. Gli inquilini cominciarono a sparire senza lasciare traccia. Sugli scomparsi e sull'appartamento maledetto, per lungo tempo nella casa si raccontarono leggende di ogni sorta, ad esempio che la gracile e religiosa Anfisa avrebbe portato sul seno inaridito, in un sacchetto di camoscio, 25 grossi brillanti di proprietà di Anna Franzevna, che nella legnaia della dacia, dove si era recata in gran fretta Anna Franzevna, sarebbero saltati fuori da soli tesori inestimabili, consistenti sempre in brillanti, nonché in monete d'oro di conio zarista. E altre cose del genere. Ma quello che non sappiamo, non lo possiamo garantire. Comunque stessero le cose, l'appartamento rimase vuoto e sigillato soltanto per una settimana. Poi vi si stabilirono il defunto Berlioz con la moglie e Stiopa con la consorte. È del tutto naturale che non appena si trovarono nell'appartamento maledetto, anche a loro cominciò a succedere il diavolo sa che cosa. E precisamente, prima che fosse trascorso un mese, le due consorti erano scomparse. Però non senza lasciare traccia. Della consorte di Berlioz si diceva che fosse stata vista a Kharkov con un coreografo, mentre quella di Stiopa sarebbe stata individuata sulla Bajedomka, dove, secondo le dicerie, il direttore del varietà, approfittando delle innumerevoli aderenze, era riuscito a procurarle una stanza, alla condizione che non mostrasse mai il naso sulla Sadovaia. Thank you. Stiopa disserrò le palpebre incollate e si vide riflesso nello specchio sotto forma di un uomo coi capelli rizzati in ogni direzione, la faccia gonfia coperta di peli neri, gli occhi enfiati, la camicia sporca col colletto e la cravatta, in mutandone e calzini. Si vide così nella specchiera, vicino alla quale scorse uno sconosciuto vestito di nero, con un berretto nero. Stiopa si sedette sul letto e spalancò sullo sconosciuto, per quanto gli era possibile, gli occhi iniettati di sangue. Fu lo sconosciuto a rompere il silenzio, pronunciando con una voce bassa e grave dall'accento straniero le seguenti parole. «Buongiorno, simpaticissimo Stepan Bogdanovich!» Vi fu una pausa, dopo la quale, facendo uno sforzo enorme, Stiopa farfugliò «Che cosa desidera?» e rimase stupito, non riconoscendo la propria voce. Il «che» l'aveva pronunciato con timbro da soprano, il «cosa» con voce di basso, e «desidera» non gli era venuto fuori affatto. Lo sconosciuto fece un sorriso amichevole, trasse di tasca un grosso orologio d'oro con un triangolo di diamanti sulla calotta, lo fece suonare 11 volte e disse «Le 11! È esattamente un'ora che aspetto il suo risveglio! Lei infatti mi aveva fissato un appuntamento per le 10 ed eccomi qua!» Stiopa trovò a tastoni i pantaloni su una sedia vicino al letto e sussurrò «Mi scusi!» Li infilò e chiese rauco «Mi vorrebbe dire il suo cognome?» Gli riusciva difficile parlare. A ogni parola qualcuno gli ficcava un ago nel cervello, causandogli un dolore infernale. «Come? Ha dimenticato il mio cognome?» E lo sconosciuto sorrise. «Mi perdoni», rantolò Stiopa, sentendo che fra i postumi della sbornia era gratificato di un nuovo sintomo. Gli sembrava che il pavimento vicino al letto fosse scomparso e che in quell'istante egli sarebbe precipitato a capofitto nel centro dell'inferno. «Caro Stepan Bogdanovich», disse il visitatore con un sorriso sagace, «nessun piramidone le sarà d'aiuto. Dia retta a una vecchia e saggia regola: curare il simile col simile. L'unica cosa che le ridarà vita sono due bicchierini di vodka accompagnati da uno spuntino caldo e piccante». Stiopa era un uomo furbo e, per quanto stesse male, capì che dal momento che l'avevano trovato in quello stato doveva confessare tutto. «A dire il vero», cominciò muovendo a stento la lingua, «ieri sera io ho un pochino...» «Non una parola di più», rispose il visitatore e si spostò con la sua poltrona. Stiopa, sbarrando gli occhi, vide sul tavolino un vassoio su cui si trovava del pane bianco affettato, del caviale pressato in un vasetto, funghi porcini marinati su un piattino, un tegame e infine della vodka in una voluminosa caraffa della gioielliera. Ciò che lo sorprese soprattutto era che la caraffa fosse appannata dal freddo. Del resto la cosa era comprensibile. La caraffa infatti si trovava in una bacinella piena di ghiaccio. Insomma, il tavolo era apparecchiato con lindezza e abilità. Lo sconosciuto non aspettò che lo sbalordimento di Stiopa raggiunse un'intensità morbosa e con destrezza gli versò un mezzo bicchiere di vodka. «E lei?» pigolò Stiopa. «Con piacere!» Con mano saltellante Stiopa portò il bicchiere alle labbra, mentre lo sconosciuto tracannò d'un fiato il contenuto del suo. Mentre masticava un pezzo di caviale, Stiopa riuscì a dire «Ma non mangia?» «Grazie, non mangio mai quando bevo», rispose lo sconosciuto e riempì i bicchieri per la seconda volta. Aprirono il tegame e dentro trovarono dei würstel in un intingolo di pomodoro, ed ecco che le maledette macchie verdi davanti agli occhi si disciolsero. Cominciarono a uscire le parole e, quel che più importa, Stiopa cominciò a ricordare qualcosa, cioè che il giorno innanzi tutto era successo a Skodnia, nella dacia di Kustov, autore di sketch, dove lo stesso Kustov aveva portato Stiopa col tassì. Rammentò perfino che avevano preso il tassì vicino al Metropol. C'era anche uno, chissà, forse un attore, con un grammofono in una valigetta. Sì, tutto era successo nella dacia. Ricordò anche che i cani ululavano sentendo il grammofono. Soltanto la signora che Stiopa voleva baciare restò inspiegata. Ma lo sa il diavolo chi era. Forse lavora alla radio. Ma forse anche no. Così la giornata precedente si schiariva poco a poco, ma ora Stiopa era molto più interessato al giorno in corso e in particolare all'apparizione nella sua camera da letto di uno sconosciuto, per di più provvisto di vodka e bevande. Questo sì che sarebbe stato bello chiarire. «Ebbene, spero che adesso lei ricordi il mio cognome». Ma Stiopa fece un sorriso confuso e allargò le braccia. «E però scommetto che dopo la vodka lei ha bevuto del porto, scusi. Ma è una cosa da fare!» «La pregherei che questo resti fra noi», disse Stiopa, insinuante. «Oh, naturalmente, naturalmente. Però per Kustov, si intende, non posso garantire». «Perché lei conosce Kustov? Ieri nel suo ufficio ho visto di sfuggita quell'individuo, ma è bastata una sola occhiata fugace alla sua faccia per capire che è un mascalzone, un intrigante, un conformista e un leccapiedi!» «Giustissimo!» pensò Stiopa, colpito da questa giusta, esatta e laconica definizione di Kustov. «Sì, la giornata di ieri si ricuciva dai vari pezzetti, eppure un senso di inquietudine non abbandonava il direttore del varietà. Il fatto è che in quella giornata era spalancato un enorme buco nero. Quello sconosciuto con il berretto. Pensate quello che volete, Stiopa il giorno prima non l'aveva proprio visto nel suo ufficio. «Sono il professore di magia nera, Volant», disse con gravità il visitatore, vedendo la difficoltà in cui Stiopa si dibatteva, e raccontò tutto per ordine. Ieri era giunto a Mosca dall'estero e si era presentato subito da Stiopa per proporgli una tournée al varietà. Stiopa aveva telefonato alla commissione regionale moscovita per gli spettacoli, aveva avuto il benestare, Stiopa impallidì e batté le palpebre, e aveva firmato col professor Voland un contratto per 7 rappresentazioni. Stiopa spalancò ora la bocca. Erano rimasti intesi che il professore sarebbe venuto a trovarlo stamane alle 10 per mettere a punto i particolari. Così Voland era venuto. Al suo arrivo lo aveva accolto la domestica Grunia, la quale gli aveva spiegato che era appena venuta anche lei, che lei veniva solo a ore, che Berlioz non era in casa e che se il visitatore voleva vedere Stipan Bogdanovic andasse pure in camera da letto. Stipan Bogdanovic dormiva così sodo che lei a svegliarlo non ce l'avrebbe fatta. Quando aveva visto lo stato di Stipan Bogdanovic, il mago aveva mandato Grunia nella più vicina rosticceria a prendere la vodka e qualcosa da mangiare, quindi in farmacia per il ghiaccio e... Mi permetta allora di regolare il conto, piagnucolò Stiopa annientato, e si mise a cercare il portafoglio. Ma non dica sciocchezze, esclamò l'artista, e non ne volle più sentire parlare. E così la vodka e lo spuntino erano diventati comprensibili, eppure Stiopa faceva pena a vedersi. Non ricordava proprio nulla del contratto, e lo avessero anche ammazzato, avrebbe giurato di non aver visto quel Volant alla vigilia. Sì, Gustav c'era stato, ma non Volant. Posso vedere il contratto? Chiese Stiopa sottovoce. Prego, prego. Stiopa guardò il documento e impietrì. Tutto era a posto. Per prima cosa, la sua firma, autografa, baldanzosa, a margine, la scritta sghemba, di pugno del direttore finanziario Rinsky, con l'autorizzazione a versare a Voland un anticipo di 10.000 rubli a valere sui 35.000 allo stesso spettanti per 7 rappresentazioni. E non basta, c'era anche la ricevuta di Voland per i 10.000 rubli da lui già riscossi. «Ma che succede?» pensò il povero Stiopa, e la testa gli girò. Cominciavano infauste amnesie, e comunque dopo aver preso visione del contratto, qualsiasi ulteriore espressione di sbigottimento sarebbe stata semplicemente indecorosa. Stiopa chiese al visitatore il permesso di allontanarsi un minuto e, così com'era, in calzini, corse in anticamera verso il telefono. Strada facendo gridò in direzione della cucina «Grunia!» Ma nessuno rispose. Diede un'occhiata alla porta dello studio di Berlioz, vicino all'anticamera, e rimase di stucco, come si suol dire. Sulla maniglia vide uno spago con un enorme sigillo di ceralacca. «Caspita!» esclamò qualcuno nel cervello di Stiopa. «Ci mancava anche questa!» E quei suoi pensieri corsero ormai lungo un doppio binario, ma, come sempre succede in caso di catastrofe, in una sola direzione. E il diavolo sa quale. È difficile persino descrivere il guazzabuglio che regnava nella testa di Stiopa. C'entrava anche tutta quella diavoleria del berretto nero, della vodka gelata e del contratto incredibile. E oltre tutto questo, come se non bastasse, il sigillo sulla porta. Cioè, dite a chi volete che Berlioz ha combinato un pasticcio e non vi crederà. Non vi crederà neanche ad ammazzarlo. Eppure, eccolo lì. Il sigillo. Già. Poi formicolarono nel cervello di Stiopa certi sgradevolissimi pensieruzzi a proposito di un articolo che, quasi a farlo apposta, egli aveva consegnato a Mikhail Alexandrovich poco tempo prima per la pubblicazione della sua rivista. Un articolo cretino, sia detto fra noi, robetta, e in tasca ne veniva ben poco. Subito dopo il ricordo dell'articolo gli venne quello di una conversazione ambigua che, rammentava, si era svolta la sera del 24 aprile in sala da pranzo, mentre stava cenando con Mikhail Alexandrovich, cioè ambigua nel vero senso della parola, chiamarla non si poteva. Stiopa non avrebbe mai accettata una conversazione così, però si era parlato di certe cose superflue. Si sarebbe proprio potuto fare a meno, signori miei, di avviare quella conversazione. Prima dei sigilli la si poteva considerare senza dubbio una cosettina da niente, ma dopo i sigilli... Oh, Berlioz, Berlioz, turbinava nel cervello di Stiopa. Non mi entra in testa. Tuttavia non c'era tempo per affliggersi a lungo e Stiopa formò il numero dell'ufficio di Rimsky, il direttore finanziario del Varietà. La posizione di Stiopa era delicata. Anzitutto lo straniero poteva offendersi perché egli procedeva a un controllo dopo aver visto il contratto e poi parlare col direttore finanziario era estremamente difficile. Infatti non gli poteva mica chiedere «Mi dica un po', ieri non ho forse concluso un contratto di 35.000 rubli con un professore di magia nera?» Non si possono fare domande del genere. «Sì?» udì nel ricevitore la voce brusca e sgradevole di Rimsky. «Buongiorno, Grigori Danilovich», disse Stiopa sottovoce. «Parla Likadiev. Ecco di che si tratta. C'è qui da me quel... l'artista Voland. Bene, io le volevo chiedere... che si fa per questa sera?» Ah, quello della magia nera, rispose Rimsky. I manifesti sono quasi pronti. Ah, disse Stiopa con voce debole. Beh, ci vediamo. Lei viene tra poco? Chiese Rimsky. Tra mezz'ora, rispose Stiopa. E appeso il ricevitore, si strinse tra le mani la testa che scottava. Che brutta storia era quella. Che cosa era successo alla sua memoria, signori miei? Nella camera da letto l'ospite non era più solo. Nella seconda poltrona stava seduto quel tipo che gli era parso di intravedere in anticamera. Adesso lo si vedeva distintamente. Baffi a penna, un vetro degli occhiali luccicava, l'altro non c'era, ma scoprì cose anche peggiori. Sul puff della gioielliera stava sdraiato in una posa disinvolta un terzo essere, e precisamente un gatto nero di dimensioni paurose, con un bicchierino di vodka in una zampa e nell'altro una forchetta su cui aveva già infilato un fungo marinato. La luce già debole della camera da letto si offuscò ancor di più negli occhi di Stiopa. «Ah, è così che si impazzisce», pensò, e si afferrò allo stipite della porta. «Vedo che lei è un poco sorpreso, carissimo Stipan Bogdanovich», si rivolse Voland a Stiopa, che batteva i denti, «ma non è proprio il caso di stupirsi. Questo è il mio seguito». In quel mentre il gatto beve la vodka e la mano di Stiopa scivolò lungo lo stipite. «Anche il seguito ha bisogno di spazio», continuava Voland, «perciò uno di noi in questo appartamento è di troppo. A me pare che questa persona di troppo sia proprio lei». «Loro, proprio loro, proprio loro», canticchiò il lungo personaggio a quadretti con voce da caprone, parlando di Stiopa al plurale. «Del resto, in questi ultimi tempi hanno fatto porcherie spaventose, si sbronzano, allacciano relazioni con donne approfittando della propria posizione, non fanno un accidente e non fanno niente per il semplice motivo che non capiscono niente del lavoro che è stato loro affidato. Danno a intendere lucciole per lanterne ai loro superiori. Usano, senza una ragione, le automobili dell'ufficio», spiattellò il gatto, masticando un fungo. A questo punto nell'appartamento successe il quarto e ultimo avvenimento strano, mentre Stiopa, che ormai era scivolato fino a terra, graffiava lo stipite con mano svigorita. Proprio dal vetro della specchiera uscì un tale, piccolo, ma straordinariamente largo di spalle, con un tubino in testa e una zanna che spuntava dalla bocca, rendendo ancora più orrendo un ceffo che era già oltremodo repellente. Come se non bastasse, aveva i capelli di un rosso acceso. «Io», entrò nella conversazione il nuovo venuto, «non capisco proprio come abbia fatto a diventare direttore». Il rosso parlava con voce sempre più nasale. «Lui è direttore come io sono vescovo». «Tu non assomigli a un vescovo, Azazello», osservò il gatto, riempendosi il piatto di Wurstel. «È quello che sto dicendo», ribadì il rosso con la sua voce nasale e, voltandosi verso Voland, aggiunse con deferenza. «Mi permette, messere, di mandarlo al diavolo lontano da Mosca?» «Shhh!» ringhiò all'improvviso il gatto, rizzando il pelo. La camera da letto vorticò intorno a Stiopa e gli urtò con la testa lo stipite della porta e pensò mentre perdeva conoscenza. «Sto morendo!» Ma non morì. Socchiudendo gli occhi, si accorse di sedere su delle pietre. Intorno a sé udiva un rumore, e quando aprì ben bene gli occhi, capì che era il mare, e che, anzi, un'onda fluttuava proprio ai suoi piedi, e che, insomma, stava seduto all'estremità di un molo, e sopra di lui c'era un azzurro cielo rilucente, e dietro una bianca città adagiata sui monti. Non sapendo come si reagisce in casi simili, Stiopa si erse sulle gambe tremanti e lungo il molo si diresse alla volta della spiaggia. Sul molo un tale fumava e sputava in mare. Guardò Stiopa con occhi attoniti e smise di sputare. Allora Stiopa la fece bella, si inginocchiò davanti al fumatore sconosciuto e disse: «La supplico, mi dica, che città è questa?» «Però», disse con indifferenza il fumatore. «Non sono ubriaco», rispose rauco Stiopa. «Mi è successo qualcosa. Sono ammalato. Dove sono? Che città è questa?» «Beh, Ialta!» Stiopa sospirò lievemente, si rovesciò su un fianco, batté la testa sui caldi massi del molo. Aveva perso i sensi.